Check 1 2, mic check 1 2, mic check 1 2, microphone check, check 1 2. Sound check, il suono della musica. Di Gegé Telesforo. Buonasera a tutti da Gegé Telesforo, dal Groove Master Studio, per un altro appuntamento con il Sound Check, la prova del suono di Radio 24. E questa sera protagonista della puntata sarà il soul jazz. Sì, parliamo dei primordi di questo genere. Nelle ultime puntate abbiamo raccontato l'evoluzione del jazz, abbiamo raccontato che negli anni 50 erano ancora in attività tutti i grandi protagonisti del genere, a partire da Louis Armstrong, l'eroe del jazz, il re del jazz, Duke Ellington e Count Basie, ovvero i protagonisti della swing era. C'era il bebop in azione con Charlie Parker, Dizzy Gillespie, Thelonious Monk, ma anche i giovani talenti come Miles Davis stavano segnando il corso della musica con produzioni come Birth of the Cool insieme a Gil Evans, oppure qualche anno dopo con John Coltrane, Bill Evans e naturalmente Julian Conobal Adderley, Miles Davis realizzò quella pietra miliare del jazz contemporaneo che è Kind of Blue. Ebbene, in questo scenario a New York, fra la metà degli anni 50 e i primi anni 60, una nuova etichetta produceva i giovani talenti. Giovani talenti che avevano assimilato tutto questo linguaggio, però con un background tipicamente blues, gospel e R&B, e quindi la Blue Note investe su musicisti per esempio del calibro di Lee Morgan, giovane trombettista che nel 1964, dopo aver realizzato i primi album per la Blue Note, questa l'etichetta incriminata, realizza un album intitolato The Sidewinder. Ebbene, questa composizione ha tutti gli ingredienti che poi compongono le basi del soul jazz. Sì, Sidewinder è un blues, non è di 12 battute ma di 24 battute, c'è un bellissimo groove, c'è il talento dei musicisti, c'è la loro improvvisazione e naturalmente c'è un'etichetta giovane che sostiene questo tipo di operazione cercando anche nuove strade per poter promuovere il jazz. E la Chrysler, la produttrice di automobili, aiuta questo processo perché investe su The Sidewinder, che utilizza come soundtrack per un commercial televisivo. Ebbene, Lee Morgan di lì a poco diventa uno dei musicisti più importanti di New York, più importanti della storia del jazz in quel periodo. E allora eccolo qui, Sidewinder, ma non nella versione originale che dura oltre 10 minuti, nella versione di un altro giovane arrangiatore che sempre nel 1964, quindi potete immaginare il successo di questa composizione, qualche mese dopo la pubblicazione dell'originale realizza il suo arrangiamento con due trombettisti, Freddie Hubbard e John Newman. Questo signore era Quincy Jones. Quincy Jones Big Band in The Sidewinder per questa puntata dedicata al soul jazz, al soundcheck di Radio 24. Si intitola Golden Boy, l'album del 1964 con protagonista Quincy Jones e la sua big band, che realizza qui al Soundcheck di Radio 24 questa sua versione di The Sidewinder, il celebre brano scritto dal trombettista Lee Morgan, che prima di approdare alla Blue Note come solista aveva in qualche modo mosso i primi passi negli studi di registrazione di Rudy Van Gelder insieme al batterista Art Blakey coi suoi Jazz Messengers, una super formazione che sfornava nuovi talenti e dalla quale proveniva anche un pianista molto interessante, quello che poi col tempo verrà considerato il papà dell'art bop, ovvero Horace Silver. Horace Silver, anche lui realizzava le sue pubblicazioni nei Rudy Van Gelder Studio e fra queste anche l'album famosissimo del 1966 intitolato The Jody Grind, protagonista anche questo del soundcheck di oggi dedicato al soul jazz. Sound check. Il suono della musica. Dopo l'informazione di Radio 24, di nuovo in contatto con il Groove Master Studio per la seconda parte del soundcheck di questa sera dedicato al soul jazz. E questo era Ramsey Lewis con il suo trio, con Aldi Young al contrabbasso, Isaac Red Holt alla batteria, concerto live del 1965 al Bohemian Caverns Nightclub di Washington DC, dove viene registrato The In Crowd. Il titolo di questo brano, scritto da Bill Page, ma anche il titolo di uno degli album live più venduti della storia del jazz. Ramsey Lewis diventò di lì a poco uno dei pianisti più richiesti, uno di quei musicisti che tutti vogliono perché garantisce sempre il sold out e il pubblico torna a casa con il sorriso sulle labbra. Ma in quel periodo c'era un altro pianista che forse non riempiva le sale come Ramsey Lewis, ma tutti i musicisti tenevano d'occhio in considerazione. Si era formato con Art Blakey e Jazz Messengers, aveva lavorato con Lee Morgan, era entrato a far parte del famoso quintetto di Miles Davis, e questo ragazzo già registrava, giovanissimo, poco più che ventenne, per la Blue Note Records le sue composizioni originali, e si chiamava e si chiama Herbie Hancock. Herbie Hancock, sempre nel 64, realizza Cantaloupe Island, un successo incredibile, con Freddie Hubbard alla tromba, Ron Carter al contrabbasso, Tony Williams alla batteria. Herbie Hancock. Soundcheck. Yes. Il suono della musica. E qui viene fuori tutta la passione per il groove di un altro meraviglioso talento del jazz, Eddie Harris, sassofonista, pianista, compositore e anche inventore di strumenti, che il 7 giugno del 1966 viene rinchiuso in studio di registrazione dai direttori artistici dell'Atlantic per realizzare un album splendido intitolato Mean Greens, dove troverete questa versione di Listen Here. E sempre nel 1966, pensate che Eddie Harris scrive un'altra composizione importante per il jazz contemporaneo, Freedom Jazz Dance, brano che Miles Davis utilizzò con la sua nuova band per un album che ha segnato la fine di un'epoca e l'inizio del nuovo corso del suo sound, ovvero Miles Smiles. E a questo punto non mi resta che salutarvi con una versione personale di Freedom Jazz Dance, ringraziandovi per l'attenzione e dandovi appuntamento a sabato prossimo 19:15, sempre soltanto su Radio 24, per il soundcheck. Buonasera, buona settimana e buona musica da Gigi Telesco.